Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E allora voglio proprio iniziare con due elementi che ci dicono che non ci sono più le mezze stagioni. Uno strettamente meteorologico, come vorrebbe la frase fatta, e un altro invece più simbolico, come anche vorrebbe, insomma, questo concetto del non ci sono più le mezze stagioni. Insomma, qui a Milano stanotte c'è stata una specie di tempesta monsonica. Quindi io voglio precettare il colonnello Giuliacci a un certo punto di quest'ora, che siamo insieme come sempre fino alle 15, per chiedergli, ma... ci stiamo tropicalizzando, che succede del nostro tempo, del nostro clima, che vedremo tra un po' a Milano come magari in altre città? Ecco, questo lo lasciamo in sospeso. Io di queste cose, con questi flash di fulmini tutta la notte, non ho mai viste. Comunque, l'altra cosa è, voi sapete che cos'è la tempura? Tempura. Qualcuno che è stato nei ristoranti giapponesi lo sa, è questa verdurina fritta, no, in pastella, ecco. Ora, mi è capitato diverse volte di andare in ristoranti italianissimi e di trovare tempura. E allora ho chiesto ai ristoratori, ma cos'è la verdura in pastella, quella fritta? Sì, sì. Dico, ma perché la chiamate in giapponese quando poi è una tradizione italiana? Gli italiani la sanno far bene da tanto tempo, da lungo tempo, soprattutto al sud, se non sbaglio, una tradizione. E adesso va tempura. Ecco. Questa cosa non so se a voi dà un po' di fastidio, ma perché bisogna chiamarlo tempura quando poi fa parte della cucina italiana, soprattutto di un certo tipo. Vabbè, questo giusto per darci due conferme, ecco, del titolo del programma. Ma adesso iniziamo, entriamo nel vivo con le notizie della settimana. Questo è sempre lo scopo mio con voi ascoltatori e con l'ospite che chiamo, che invito diverso ogni volta, di commentare i tanti fatti della settimana in piena libertà, con spirito critico libero, personale. Il numero verde, lo ricordo per voi ascoltatrici e ascoltatori, sempre quello, 800 24 00 24, lo ripeto, 800 24 00 24. E adesso saluto immediatamente il mio ospite in collegamento da Parigi, niente po' di meno, Francesco Merlo. Francesco, buongiorno. Grazie di essere qui, ospite e opinionista estemporaneo, come io dico, non ci sono più le mezze stagioni, anche se Francesco Merlo in realtà lo è tout court, un opinionista, editorialista, grande editorialista di Repubblica da diversi anni, è stato 20 anni al Corriere della Sera, una delle firme davvero più prestigiose del giornalismo italiano. E devo dire la verità, insomma, quando l'entusiasmo si sente, un po' bisogna esprimerlo, diversi, molti degli editoriali di Francesco Merlo sarebbero da collezione. Ecco, se avete delle cornici preziose li potete mettere lì, Francesco. E tra l'altro ho appena pubblicato per Bompiani FAC Italia, che è in realtà una collana, Francesco, chiariamolo subito, perché suona un po' anglofono e potrebbe voler significare qualcosa che non è quello, no? FAC Italia, giusto? Certo, è l'inizio di una collana di questi FAQ Books, perché FAQ sarebbe l'acronimo di Frequently Asked Questions, che significa per chiunque usa il web, è quella parte del web dove si clicca e appunto c'è la risposta alle domande più frequenti su evidentemente un argomento che cambia di volta in volta. Il primo argomento di questa collana, che è una collana della Bompiani inventata da Sergio Claudio Perroni, ed è l'Italia, e io mi è stato chiesto di mettere insieme queste domande e queste risposte, e ho cercato di farlo nella maniera migliore per me possibile. E infatti viene presentato dalla seconda di copertina con un'incalzante serie di domande accompagnate da taglienti risposte sugli aspetti politici, non potrebbero essere diverse quelle di Francesco Merlo, sugli aspetti politici, storici, culturali e di costume del dilemma Italia, da Ruini a Berlusconi, da Manzoni a Sanremo, da mammismo a slow food, dal caso Englaro a Grillo, ce n'è veramente di ogni sorta. E qui davvero, almeno come spunto, poi uno può essere d'accordo o no, leggersi le risposte che Francesco Merlo dà a tutte queste assillanti, fondamentali domande legate appunto al nostro paese attuale e alla sua storia anche più recente e non solo. Francesco, allora, tra poco ci saranno gli ascoltatori che chiamano al numero verde 800 24 00 24, vedremo quali sono le notizie che hanno colpito più loro e quelle che, su cui ti vuoi soffermare tu, ma adesso facciamo come sempre un collegamento extraplanetario. Riflessioni da Marte. Allora, vediamo di quali bizzarrie terrene occuparci questa volta. Beh, come al solito c'è l'imbarazzo della scelta, oppure si può dire una scelta imbarazzante, insomma, a seconda dei casi. Questa volta ci si butta sugli animali e la loro controversa convivenza con gli umani, una convivenza che porta non pochi danni agli animali, naturalmente. Per esempio, anche in Italia, dopo Stati Uniti e altri paesi occidentali, l'obesità colpisce pesantemente, il caso di dire pesantemente, visto il peso, pure cani e gatti. Pance strabordanti, cosce ridondanti e doppio mento da un po' affliggono anche le quattro zampe. Lo rivela Hill's Pet Nutrition, leader mondiale della nutrizione e della dietetica, pensate, clinica di cani e gatti, che ha presentato i risultati di questo primo studio condotto in Italia. Colpa, dicono gli esperti, dello stile di vita domestico. Chissà, insomma, che non si debba ricorrere anche per loro, per cani e gatti, alla dieta del minestrone. Lo sappiano quindi di questo problema dell'obesità hostess e steward della prima compagnia aerea che si chiama Pet Airways, nata apposta in questi giorni negli States per i quadrupedi. Non servano quindi hostess e steward ai loro clienti pelosi snacks ipercalorici o alcolici. E la compagnia aerea animalesca fondata da Lisa Binder e dal marito Dan Wiesel ha effettuato proprio in questi giorni il suo primo volo. C'è un forte bisogno di viaggi aerei sicuri per cani e gatti, ha dichiarato la Binder. A noi veramente ci sembrava che ci fosse un forte bisogno di viaggi sicuri per gli umani, visti soprattutto gli ultimi avvenimenti, ma per carità, non vogliamo fare una questione di priorità. A proposito di voli e di animali, mi verrebbe, insomma, qui da Marte, la tentazione di liberarci dei migliaia di calamari giganti con becchi, pensate, duri, acuminati come lame, che si sono versate nelle acque di San Diego in California, diffondendo il panico tra i bagnanti, aggiungendo quindi un altro problema allo stato di Schwarzenegger, liberarci di questi mostri abnormi spedendoli a bordo dei missili nucleari che ogni tanto, sapete, che la Corea del Nord lancia qua e là come fuochi d'artificio. Ma insomma, si potrebbe essere accusati di anti-animalismo, no? E soprattutto se si pensa, e qui si dimostra che gli esseri umani hanno davvero un substrato misteriosissimo, che proprio in questi giorni, pensate, è nata un'associazione delle vittime di attacchi da parte degli squali con l'obiettivo di salvare gli stessi squali. E queste persone che magari hanno visto portarsi via un braccio, una gamba, no? Ci sono anche dei filmati, un pezzo di faccia, ecco, vogliono salvare gli squali dall'estinzione. E poi i marziani sarebbero quelli che vivono su Marte. Lo sai, Francesco Merlo, che è nata in questi giorni questa associazione di persone che si vedono nelle foto senza un braccio, senza una gamba, con metà faccia, e che hanno deciso proprio di chiedere al Congresso americano, proprio in Parlamento, di emanare una legge che salvaguardi gli squali dall'estinzione. Io non dico che non lo debbano fare, ci mancherebbe, ma che cosa spinge queste persone così devastate a salvare i loro stessi aguzzini, che pur per carità non l'hanno fatto intenzionalmente, però insomma io magari penserei, che so, ai procioni, ai panda, se proprio voglia, o forse è un modo di esorcizzare il male ricevuto, e il perdono a volte anche verso le altre persone che ti hanno fatto del male, è un modo di vincere questa sconfitta o questo dramma. Che dici tu? Ma non so, bisognerebbe guardare caso per caso. Certo, dietro questo eccesso di amore per gli animali c'è sempre un odio verso gli uomini. No, ma squali poi che gli hanno portato via pezzi di corpo. Tanto più quelli che sono stati vittime. Proprio loro, un'associazione di vittime degli squali. L'associazione di vittime degli squali che si batte per la sopravvivenza degli squali, non lo so, mi sembrano dei matti, più o meno matti intossicati di qualcosa, no? Probabilmente del loro stesso male, non so che dire, sono persone per me incomprensibili. Ripeto, alla base c'è un fanatismo ideologico pro-animalista che gira e che viene venduto come pensiero politicamente corretto, ma che ha, come sanno tutti gli umanisti, insomma, cioè gli animali vanno rispettati per quanto si può, certo, sempre tenendo presente che chi li ama troppo lo fa contro gli uomini, insomma. No, e poi direi in questo caso, e poi non mi soffermo più di tanto, ma mi interessava proprio così questo aspetto così strano di psicologia umana, no? Forse può essere che proprio questi che gli hanno fatto del male, gli squali, il fatto di perdonarli sia un esorcizzare questo dramma che hanno vissuto. Chi lo sa, insomma, se qualcuno ci capisse qualcosa, ecco, il numero verde anche per gli altri fatti della settimana è sempre 800 24 0024. Intanto, prima di fare fare un sunto di alcune poche dei fatti della settimana, perché come sapete sono a migliaia, a milioni in tutto il mondo, vorrei sentire, cominciare a sentire un ascoltatore che è Massimo da Udine. Massimo? Massimo? Buonasera. Buongiorno, buonasera. Ciao Massimo. Sì, volevo salutare Francesco Merlo e la redazione, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io non so se posso fare una domanda che a me preme rispetto all'attualità. Insomma, è una domanda, che si può fare in sconveniente? Massimo? No, è una domanda riguardo la situazione economica politica del momento, che la puoi fare. Prego Massimo. Qual è la tua domanda? Sì, la mia domanda è molto semplice. Io sono direttore marketing, sono sempre in giro per il mondo e quindi lavoro praticamente con tutto quello che è l'esportazione. Quello che volevo chiedere è come mai questo paese a cui sono molto legato, che è l'Italia, che è il mio paese, fondamentalmente non dà dimostrazione di voler superare o di voler affrontare la crisi nella versione giusta, anche perché mi sembra che noi siamo veramente in una condizione abbastanza defragante e ci stiamo qua a baloccare con una serie di discorsi, ecco tutto qua. Questa Massimo, tu ne parli a livello governativo, dirigenziale, politico, quindi dici non voler... Sì, penso che sia un tutt'uno, fondamentalmente non è una questione di parte, Berlusconi non Berlusconi, è una questione proprio di volersi essere coesi per superare un momento così tremendo, insomma, questo è il concetto. Allora, io ringrazio intanto il primo ascoltatore di oggi, che è Massimo da Udine, con questa domanda impegnativa che poi giro, lui stesso l'ha girata direttamente a Francesco Merlo. Noi ci prendiamo una piccola pausa, così se state viaggiando ci sono le informazioni per voi. Volevo soltanto citare uno speciale che ha fatto Repubblica proprio in questi giorni, intitolato Stressati e Felici, prendendo un'indagine di Demos Coop, un'indagine fatta sugli italiani, secondo cui appunto gli italiani hanno accusato ovviamente la crisi e ci sono stati tanti effetti di ogni tipo, il calo dei consumi, preoccupazioni eccetera, però sembra che da un po' intanto il calo di consumi si sia arrestato e gli italiani, per questa dote di forte adattabilità che hanno, per fortuna insomma, che abbiamo, si stiano riprendendo e abbiano proprio così voglia invece di riprendere, di rimettersi in piedi e di pensare positivo, come si dice. Roberta Giordano sempre con voi, insieme sino alle 15 e voi avete la possibilità di esprimere le vostre opinioni, le vostre riflessioni su qualsiasi fatto, notizia della settimana, numero verde 800 24 00 24. In collegamento da Parigi c'è Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, del quotidiano Repubblica, una delle firme più prestigiose, più grandi del giornalismo italiano, che ha appena pubblicato FAC Italia per Bompiani. Francesco, vuoi rispondere quindi a Massimo, che diceva, nonostante appunto quella sondaggio che dicevo da Repubblica, Massimo esprimeva un umore molto negativo, era sostanzialmente uno schizzo di umore nero nei confronti dei governi italiani, lui dice di qualsiasi colore, di qualsiasi parte eccetera, perché diceva ci stiamo baloccando con una crisi senza affrontarla in modo efficace. Sì, siamo in crisi noi, siamo in crisi, è in crisi tutto il mondo occidentale, c'è una crisi economica. Io non credo che la crisi stia distruggendo l'Italia o gli altri paesi occidentali, cioè, è una forte crisi. Penso che ogni volta che c'è una crisi non bisogna poi pensare che i mercati sono finiti, che il mondo è finito, che c'è la catastrofe, eccetera. Si affrontano le crisi. Poi ci sono delle crisi italiane specifiche, c'è una crisi politica, una crisi di rappresentanza, una crisi di credibilità, una crisi della civiltà dei costumi. Morale, vuoi dire? C'è una crisi morale, certamente, dello stile di vita, il Presidente del Consiglio, c'è il conflitto di interessi. L'Italia porta una specificità forte, traballante nel mondo occidentale, e quella è tutta un'altra storia, insomma. Ma Francesco Merlo, io vorrei approfittare del fatto che tu sei a Parigi, da Parigi scrivi da tanti anni, no? Uno, come mai hai scelto Parigi? Due, come l'Italia vista da Parigi, almeno in questo periodo? Ma guarda, ho scelto Parigi perché mi ci ha mandato il giornale e poi perché invece l'Italia, devo dire la verità, sull'Italia un po' tutti ridono in questo momento, l'Italia viene vissuta come molto pittoresca. Le Monde pubblicò un paio di settimane fa, credo, un sondaggio europeo nel quale si domandava, scusi, ma voi qual è il paese secondo voi, si domandava ai tedeschi, agli inglesi, insomma agli europei, qual è il paese dell'Europa avanzata che secondo voi mette più a rischio la democrazia? Italia, la risposta era l'Italia. Poi si domandava, dopo una serie di altre domande negative nelle quali noi avevamo il primato, si domandava anche qual è il paese dove a voi piacerebbe vivere, appunto, se voi non foste inglesi, tedeschi o francesi, eccetera. E loro rispondevano l'Italia. Quindi, insomma, e un po' contraddittorio. C'è un mistero, una passione, che è veramente nessun conflitto di interessi, nessun ossimoro, nessuna bizzarria governativa poi riesce in qualche maniera a scalfire. E forse anche questa passione è uno stereotipo, questa bellezza italiana potrebbe anche questo essere un'invenzione immaginaria, no? Chissà, per il momento ci teniamo l'illusione. Senti, io prima di sentire un altro ascoltatore al numero verde che vi ricordo 800 24 00 24, che è Manuel da Potenza, vorrei, come dicevo, fare come al solito un minimerrimo, direi, sunto di alcuni fatti della settimana. Per esempio, dicevo all'inizio, l'ondata di maltempo, no? Che ha creato nelle ultime ore molti danni e anche alcune vittime. Milano che vieta l'alcol ai minori di 16 anni, il primo comune in Italia, con sanzioni per i genitori e per gli esercenti in caso ci sia una trasgressione. Quindi i minori di 16 anni da lunedì, da dopodomani, non potranno più comprare e consumare alcolici. Poi la tragedia sul Monte Rosa con i tre alpinisti morti, i pirati della strada che a Roma e poi a Mazara del Vallo hanno falcidiato altre povere persone, l'84enne uscito di senno nel Vicentino che ha ucciso un carabiniere che cercava di calmarlo, ucciso a fucilate, gli attentati in Indonesia, ricordiamoci che l'Indonesia è il più grande paese islamico al mondo, l'Iran con la situazione di crisi profonda e un paese spaccato in due da una parte con Ahmadinejad, il presidente rieletto che integralista con questa velleità autoritaria, dall'altra invece Mousavi, il candidato che ha perso le elezioni, così sembra, insomma, non si capisce se sono stati brogli, ma comunque progressista. E poi un'altra tragedia aerea che ha colpito gli iraniani, l'uccisione della giornalista russa e attivista per i diritti umani in Cecenia, Natalia Estemirova, e mi piacerebbe sapere poi da Francesco Merlo, visto che il presidente Medvedev russo ha detto colpiremo assolutamente i colpevoli, se è ipocrisia pura o se ci crede veramente. Poi la morte, i funerali solenni del paracadutista italiano ucciso in Afghanistan, la legge contro la violenza sessuale, la corsa alla segreteria del PD con Grillo che è riuscito a tesserarsi in un circolo irpino anche se il partito dice no, non se ne parla, il pacchetto sicurezza, la legge sicurezza, Napolitano l'ha firmata ma ha espresso diverse perplessità, per quanto riguarda l'economia è stato presentato il documento di programmazione economica e finanziaria con questo emendamento per le donne della pubblica amministrazione che dovranno a partire credo dal 2010 sì, andare in pensione a 65 anni. E a questo punto io darei per esempio un premio, non ci sono più le mezze stagioni, questa settimana lo darei a Giannelli che fa le vignette sulla prima pagina del Corriere, che in questi giorni ha fatto questa vignetta con una coppia di, diciamo, di mezza età, di anziani, davanti una donna e un uomo davanti alla televisione sul divano, lui che dice, appresa questa notizia delle donne che anche loro andranno in pensione a 65 anni, dice bene, allora pari opportunità, e lei dice sì, però dispari, fregature dispari. Ecco, questo mi sembra che meriti un premio che dica veramente in una battuta tutto quanto. Il Papa col braccio ingessato e polemiche sul Papa, i quattro gatti, sapete che è stato rimosso il vaticanista del TG3, la sentenza dell'uccisione del tifoso laziale Gabriele Sandri, con tutte le polemiche che ci sono state, l'omicidio del 19enne Abba, padre e figlio sono stati condannati a 15 anni e 4 mesi, due commercianti che l'hanno ucciso a sprangate. Sapete che per quanto riguarda la morte di Michael Jackson si comincia a indagare a Los Angeles sull'ipotesi di omicidio, Whitney Houston che ritorna finalmente ad agosto con un nuovo album, poi Ibrahimovic al Barcellona, insomma ce n'è per tutti i gusti. Tu Francesco hai voglia su queste cose così che ho sintetizzato di soffermarti su una in particolare? Ma io forse, se andiamo all'attualità stretta, andiamo alla giornata di oggi, cioè abbiamo la legge l'ordinanza di Milano che impedisce ai ragazzi di sotto i 16 anni di comprare e consumare. È una legge che io considero giusta, tranne che per un codicillo che considero profondamente ingiusto, che è quello che colpisce i genitori. Cioè lì siamo ad un uso terroristico della legge, una cosa che non si capisce bene se è un abuso di psicanalisi o se è una, un atteggiamento italiano che poi trasforma il diritto in terrore, perché mai le colpe dei figli dovrebbero ricadere sui padri? Già che il contrario delle colpe dei padri. Sì, delle colpe dei padri, che già era ingiusto quello, ma voglio dire, se io ho la disgrazia di un figlio che si ubriaca, invece perché dovrei essere colpito ancora una volta, oltre ad avere quella disgrazia lì? Io non so, quando ero ragazzino fumavo di nascosto, mio padre non aveva mai fumato, non mi dava l'esempio, era contrario, eccetera, eppure io fumavo di nascosto. Non è vero, credo che è vero, stato non giusto. Sempre sono responsabili i genitori, no? A volte ti educano in modo irreprensibile su tante cose, poi un po' la voglia di trasgressione, un po' una strada che prendi per conto tuo comunque come figlio, non è che per ogni cosa, giustamente. Però sarebbe interessante sapere poi cosa ne pensano anche gli ascoltatori, le ascoltatrici, chi ha figli ma anche chi non ha figli. E intanto sempre il numero verde 800 24 00 24, mentre c'è sempre il collegamento, avete appena sentito Francesco Merlo da Parigi, sentirei Manuel da Potenza. Buongiorno a tutti. Ciao Manuel, buongiorno a te. Non so se per caso non riuscite a sentire bene, ma mi trovo in viaggio. Sì, dove stai andando? Posso farmi un po' i fatti tuoi, Manuel? Sì, faccio un viaggio fino a Napoli. Ah, breve. Ma così per turismo? No, diciamo che vivo di solito un weekend a Napoli perché la mia fidanzata è napoletana. Beh, insomma, com'è questa fidanzata napoletana? È una partenope con lo sangue. Ecco, questo volevo dire, piacciono molto le donne napoletane. Manuel, quindi al di là di queste cose, qual è la tua notizia della settimana? Ma io ero rimasto un po' perplesso sull'affermazione del signore che stava commentando il discorso sull'amore degli esseri umani verso gli animali. Ah, forse ti riferisci a Francesco Merlo, editorialista di Repubblica. Sì. No, hai sentito che si parlava in questo caso specifico proprio di questa associazione grossa delle vittime degli squali, che è nata negli Stati Uniti e che ha chiesto al Parlamento americano proprio di promulgare una legge a favore contro l'estinzione degli squali, cioè viene proprio da queste persone, questo era il fatto strano, no? Ma io credo sia una cosa bellissima più che un fatto strano. Cioè, io credo che l'essere umano, in quanto mente pensante, ha la responsabilità di tutelare tutti i generi animali esistenti sulla faccia della terra. Se poi un'organizzazione fatta anche di queste persone, magari utilizzate anche come sponsor magari da altre persone, fanno una cosa del genere, è da apprezzare e basta, non è da condannare oppure dire che è una malattia. Credo che ci sia nell'amore malattia, più amore si fa meglio si vive tutti. Manuel, certo, è difficile immedesimarsi questo, no? In queste persone che si sono viste, poi immagina anche lo spavento, il dramma terribile, non solo ritrovarsi senza braccio, ma anche il momento in cui avviene questa cosa senza una gamba. Però evidentemente una forza d'animo che supera ogni altra cosa è la voglia di poi difendere quelli che ti hanno per sempre staccato una parte del tuo corpo. Comunque, insomma, questo era un ragionamento psicologico, al di là delle cose sociologiche di cui stiamo parlando, che mi interessava. C'è ancora un minuto prima della prossima pausa e poi abbiamo ancora mezz'ora insieme. Francesco Merlo, se tu hai voglia di cominciare a fare qualche riflessione, no, qualche... voglio solo dire a Manuel che così possiamo amare la zanzara che ci punge, la medusa che ci infiamma la pelle. Non dico che bisogna odiare la zanzara, a parte che in genere la spiaccichiamo sul muro, però bisogna avere un rapporto di realismo e di normalità con le cose, questo. E dopodiché va bene, si può anche amare lo squalo che ti mangia il braccio, non so se è amore o qualche altra cosa. Poi non so, ci sono una notizia della settimana, la notizia della settimana credo che sia l'intervento del Capo dello Stato che ha promulgato la legge, il famoso pacchetto sicurezza, e devo dire, dobbiamo trovare delle forti parole di comprensione per il Capo dello Stato, perché è un momento veramente difficile e la radicalizzazione dello scontro politico non era mai stato così forte. Tuttavia è una trovata strepitosa, italiana, italianissima, quella di approvare una legge disapprovandola. Cioè, è un ricorso a una risorsa italiana che è l'ossimoro, che è contraddizione in termini, si sì, dice una cosa grana di cui siamo fatti noi, no? Dall'imperialismo, straccione di Mussolini, le convergenze parallele, il partito di lotte di governo, gli atei devoti, eccetera, eccetera, sino alla legge approvata ti sta provando. Bene, Francesco, poi abbiamo ancora mezz'ora insieme, mi piacerebbe sapere anche cosa pensa Francesco Merlo, per esempio, di questa candidatura un po' forzata, diciamo, di Grillo e di tante altre cose di cui possiamo parlare. Anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, riflettete, provate a fare un po' così una sintesi delle cose che avete sentito in questi giorni e quale volete scegliere per esprimere la vostra opinione. Eccoci ancora qua insieme, Roberta Giordano con voi, siamo insieme fino alle 15 per commentare con la massima libertà di pensiero le notizie della settimana. Il numero verde per le ascoltatrici e gli ascoltatori è sempre quello, 800 24 00 24. E con me in collegamento da Parigi c'è Francesco Merlo, una delle firme più note del giornalismo italiano, editorialista del quotidiano Repubblica, appena pubblicato FAC Italia per Bompiani, con tante domande e risposte sul nostro paese. Ve ne cito solo alcune che sono anche in copertina. Questo, il nostro, non è più il paese del sole e del mare, ragion di Stato o ragion di mamma? Il Papa è il Presidente della Repubblica, Cavour fece l'Italia per interessi privati, il conflitto di interessi è una questione antica o attuale? Insomma, veramente molto, molto sagace e stimolante questo libro di Francesco Merlo. Ma ti volevo chiedere, tra i fatti della settimana, Francesco, insomma, cosa pensi di quello che sta avvenendo per la segreteria del PD, di Grillo? Ma di Grillo io personalmente lo farei entrare e lo farei partecipare alla corsa alla segreteria, alle primarie, eccetera, perché non vedo perché un partito debba avere paura di nessuno. D'altra parte, se poi si scoprisse che il Partito Democratico ha una maggioranza di grillini, anche questa sarebbe una novità, una interessante. Notizia. Detto questo, lo so, Grillo è un comico, noi italiani abbiamo un rapporto molto forte con i comici, abbiamo imparato tanto dai comici, direi speciale, abbiamo questo rapporto, ci hanno insegnato trucchi, scorciatoie di grande intelligenza, basti pensare a Totò, abbiamo imparato forse più cose da Totò che non dai Gramsci. Totò con il voto Antonio, vi ricordate, no? Sì, voto Antonio, voto Antonio. Sì, spiegava che la campagna elettorale dei suoi tempi era una specie di canovaccio da, come si dice, da commedia dell'arte, no? Però Totò non voleva fare altro. Grillo invece è una somma di Totò e del professor Sartori. Cioè, quindi lui propone invece una, come dire, un Sartori totoizzato, no? Cioè uno che prende drammaticamente sul serio la propria scienza politica, no? Ecco, questo personalmente, quindi io non amo quella politica lì, però voglio dire, io se fossi iscritto al Partito Democratico non lo voterei, ma mi piacerebbe che lui potesse concorrere a quello che vuole. Se io te la butto lì, poi tu se vuoi rispondere, altrimenti no. Tra i tre candidati ufficiali, diciamo, che ci sono adesso, quindi Franceschini, Bersani, Ignazio Marino, tu chi sceglieresti? Se hai voglia. Ma guarda, io ripeto, non sono iscritto al Partito Democratico. No, ma così proprio. No, ti rispondo, non rispondo volentieri, non mi sottrago. Io sceglierei Marino. Cioè Marino, perché Marino non è una carriera, no, ma è una storia, e oggi non chirurgo, cervello andato all'estero e ritornato, no? Sì, è un professore che ha fatto un medico che ha fatto una grande scienza della propria attività, l'ha fatta bene, quindi si capisce che è disinteressato, perché il suo mondo non è il mondo della politica stretta. Quindi io sceglierei questo, ripeto, oggi non vincono le carriere, ma vincono le storie. In Italia le storie vincenti sono, devo dire, purtroppo, perché io non sono berlusconiano, ma sono certamente un caso emblematico, dice un'altra Berlusconi. Storia è Di Pietro, e anche lì io non sono di pietrista, e c'è un'altra storia è Bossi, sono quelli vincenti, le carriere non ce la fanno, ce la fanno le storie significa, siano anche quando sono storiacce, significa vita vera. Ora Marino mi sembra una bella storia, e quindi se io fossi iscritto al Partito Democratico e dovessi scegliere fra questi tre candidati, o quattro con Grillo, che si presentano alle primarie, sceglierei Marino. Bene, adesso chiedo invece agli ascoltatori, anzi do la parola alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ce ne sono diversi in attesa, scusate se devo avere un pochino di pazienza. 800 24 00 24, c'è Stefano da Bologna, Maria Teresa da Alessandria, Sergio da Milano. Stefano. Buongiorno. Buongiorno a te, Stefano. Intanto la ringrazio perché mi tenete sempre in compagnia. Sono un agricoltore e spesso lavoro sulle macchine operatrici e ascolto sempre. E tieni la radio accesa sul trattore, per esempio. Esatto. C'è la radio, bene. È bello immaginarti. Per quanto riguardava la responsabilità dei genitori verso i figli sì, minorenni. A proposito del divieto a Milano per gli alcolici minori di 16 anni. Esatto, le esprimo il mio parere. Sì. Io ho due figli adolescenti, sono così, e ritengo invece di essere, sono favorevole a questa cosa qua, perché ritengo che come genitori abbiamo questo tipo di responsabilità, e quindi siamo noi che dobbiamo trasmettere ai nostri figli i vari paletti e il senso del, insomma, delle cose. Del bene e del male, e questo giustamente è doveroso, Stefano, però il problema era che se questi giovani contravvengono e quindi consumano alcol minori di 16 anni, la multa va direttamente ai genitori. Quindi immagina tu, non voglio pensare ai tuoi figli, anzi saranno encomiabili, però irreprensibili, immagina che ho tuo figlio, tu hai due maschi, una femmina, un maschio, due femmine. Un maschio e una femmina, sì. Immagina che uno di loro una sera, hanno meno di 16 anni. Sì, esatto. Ecco, e quindi ci siamo con tutti gli elementi e le caratteristiche. Metti che uno di loro una sera così alza un po' il gomito, consuma alcol, anzi senza alzare il gomito li consuma proprio gli alcolici, perché già lì la sanzione scatta, e tu ti senti, anche se tu li hai educati bene, responsabile di questa cosa e di pagare quindi questi 450 euro lì sull'unghia. Io li pago perché loro faranno parte, se riesco a trasmettere loro lo sbaglio, servirà di lezione, se no non serve. Ecco. Senti, poi la recuperi dalla paghetta che non gli dai più per qualche mese o cosa? Dopo ci saranno chiaramente delle ripercussioni non corporee, no? Nel senso, però ci sono alcune cose che potranno essere un attimo penalizzate, però è giusto. Non credo che sia giusto lasciare allo sbando o comunque scaricare su di loro una responsabilità che invece noi non dobbiamo fuggire da questa. Quindi se succede qualche cosa, chiaramente si pagano, non penso insomma che siano 450 o 300 adesso, no, era proprio il principio forse che diceva Francesco Merlo, no? Magari io li educo nel modo più ineccepibile possibile, poi però può succedere che un figlio faccia una sua scelta così personale. Comunque Stefano, è chiarissimo il tuo pensiero, dimmi solo come va l'agricoltura, le tue coltivazioni con questo tempo pazzo? Questo qua è probabilmente un tempo pazzo, infatti abbiamo diverse problematiche e quindi sì, il tempo, diciamo, non c'è più il mezzo stagione come una volta. Allora vedi che il titolo l'ho scelto giusto. Va bene, grazie Stefano anche per la simpatia. Ciao Stefano. Maria Teresa da Alessandria, sempre al numero verde 800 24 00 24. Pronto? Sì, Maria Teresa, sono qua. Sono Gianina. Qua. Sì. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire a proposito del discorso che avete fatto prima sugli animali. Sì. Allora, per quanto riguarda il discorso nella fattispecie degli squali, anch'io rimango totalmente perplessa perché è un po' incomprensibile. Però in senso più ampio, invece, volevo intervenire sull'uomo, che è l'essere umano che ha messo quasi al primo posto gli animali rispetto a... Beh, qualcuno, non tutti. Sì, ma diciamo che oggi sei quasi controcorrente se ti esprimi in questo senso, cioè ci sono delle persone che quasi, che ne so, gli animali li hanno quasi idealizzati. Io vedo donne che portano le cagnoline in braccio e il bambino piccolo se la fa a piedi, cioè dico, insomma, non so se a voi è mai capitato. Sì, forse perché i cagnolini, alcuni sono talmente piccoli come dei topini che magari hanno paura che li schiaccino, non so se per quello comunque. Quindi secondo me è proprio questa mancanza di punti fermi, cioè di capire che ok, l'animale è normale che debba essere rispettato in quanto animale, però non può essere avere la priorità. Assolutamente no. Una volta, per esempio, il cane che mordeva il mulo che dava il calcio, veniva abbattuto. Oggi invece questo non si fa. Cioè, io credo che dovremmo un po' tornare alla consapevolezza che l'uomo, comunque, che ci piaccia o no, io spero che ci piaccia, debba essere al di sopra del resto. Sì, o se no, al di sopra, diciamo, nel rispetto reciproco, senza esagerazione, ecco, senza integralismi da una parte e dall'altra, forse, no? È questo, senza esasperazioni. Maria Teresa, ti ringrazio moltissimo. Adesso devo correre prima di sentire tra poco il colonnello Giuliacci a proposito appunto di questo tempo pazzerello di cui parlavamo. Però vorrei dare spazio almeno ancora a un altro ascoltatore, poi sempre aperto per voi il numero verde 800 24 00 24 per le vostre opinioni sui fatti della settimana. Dicevo, Sergio. Buongiorno. Buongiorno a te, Sergio. Dunque, il mio problema è questo, sulla l'immagine dell'Italia nel mondo. Io vorrei capire dai giornalisti, io sono architetto, laureato in Francia, vivo in Italia, sono italiano e ho 58 anni. Sì. Mi è venuto il dubbio di non essere abbastanza né intelligente né informato. Mi dovrebbero spiegare perché in Italia si parla di mancanza di democrazia, perché si dice che siamo in un regime, perché si considera il primo ministro un depravato perché è andato a puttane, come se in Italia nessuno andasse a puttane. No, scusa Sergio, ti fermo solo in questo caso. Io penso che ognuno, io personalmente, nella vita possa andare con chi vuole, donne, uomini, uno una volta, due una volta, basta che sia reciproca la cosa. Io sono per la libertà sessuale, a meno che uno non sia impegnato con qualcuno o glielo dice chiaramente, è inutile poi insomma ingannare alle spalle. Però solo quando viene fatto questo discorso, che non sono molto d'accordo, che mi si dice come se gli altri non andassero a puttane. Intanto non è un merito, secondo me, proprio perché si sfruttano le prostitute, non per altro. E poi comunque essere il presidente del consiglio è diverso che essere un insegnante, un giornalista, un operaio, un'avvocata, o no? No, quello che voglio dire è che sembra che sia l'unico uomo italiano che vada con una prostituta. E lo si porta il ruolo e la doppia morale un po'. Ma perché Sarkozy non ci va, perché Bush non ci è andato, perché Clinton non ci è andato, ma voglio dire, l'uomo politico probabilmente gli fanno anche dei bei tranelli, perché le signore che fotografano col telefonino l'interno del bagno privato, voglio dire, non mi sembra una cosa così da portare sui giornali. Certo che non ci facciamo una bella figura come italiani. Sì. Poi il problema del Partito Democratico: dovrebbero togliere il termine democratico. Pronto? Sì, no, ti sento in religioso silenzio, Sergio. Un partito che si propone come partito progressista democratico non può censurare Grillo perché gli rompe le scatole o perché dice delle cose contro i dirigenti di quel partito. Quindi, voglio dire, siamo tutti nella stessa padella, non ce n'è soltanto uno, Berlusconi, che dobbiamo friggere. Ne dobbiamo friggere parecchi, se non tutta la classe politica italiana. Potrebbe essere una volta, adesso non per fare del qualunquismo, ma certo se ci fosse un rinnovamento generale. Comunque Sergio, ti ringrazio di questi stimoli, di queste sollecitazioni, delle tue opinioni. Adesso intanto, sempre a occhi dappertutto, guardavo anche le agenzie dell'ANSA che arrivano ogni pochi istanti e leggevo che, a proposito dell'immagine del nostro paese all'estero, arrivano elogi all'Italia per l'impegno in Afghanistan e per la compattezza con cui il governo e l'opinione pubblica hanno reagito alla morte del parà Alessandro Di Lisio. Sono stati rivolti ieri dal vice segretario della difesa William Lynn all'ambasciatore italiano a Washington Gianni Castellaneta. Però volevo sentire da Francesco Merlo allora che cosa ne pensava di questo intervento e delle varie cose dette da Sergio da Milano. Io intanto concordo con te che bisogna anche far vedere che ci sono delle cose belle e positive. Questi elogi sono meritati, così come è stato ben condotto il G8 dell'Aquila e ne siamo tutti contenti. Dopodiché c'è attorno al governo dell'Italia una nuvola di sudicio, che è una nuvola di sudicio che non rimanda alle abitudini private che si possono esplicare in vari modi, andando a prostitute se si vuole eccetera, non rimanda neanche al valore della seduzione, no? Ma è al disvalore dell'impotenza, della malattia, del disturbo. Cioè lì il punto è, da un lato, uno stile di vita che non è uno stile di vita adatto ad un Presidente del Consiglio, perché è un Presidente del Consiglio che ha fatto della sua vita privata, del suo corpo, di se stesso, materia di politica collettiva. E soprattutto c'è un punto fondamentale, anzi al quale nessuno può dir nulla, l'uso dello Stato. Non è possibile che ci sia al mondo un Presidente del Consiglio di un paese occidentale che regali, conceda, che sia sospettato di regalare, di concedere pezzi dello Stato in cambio di piaceri sessuali. Questo non avveniva neanche nel Medioevo, quindi è una cosa che va al di là della sporcizia, dello stile di vita, dell'idea dell'assatanato di scalpi femminili, il Don Rodrigo, perché di questo si tratta, eccetera, che è accusato dalla moglie, le scuole per le veline, ci sono state delle intercettazioni che sono state distrutte e nelle quali si parlava di giudizi, è stato riempita l'Italia di queste cose e si sa che in Italia quando si distrugge qualche cosa si distrugge sempre una prova, cioè la altrimenti non ci distruggerebbe. Cioè, se si va a toccare qualcosa è perché lì evidentemente c'è qualcosa che non ci voleva far sapere. Ora, tutto questo che è provato da fotografie, da interviste, da video, è rimasto completamente fuori dalla televisione privata e pubblica. Non c'è stata una sola televisione in Italia che ha intervistato una di queste ragazze che sono state intervistate da tutti i giornali, di destra e di sinistra. Non era mai successo. Quindi questo ci dice che c'è un problema in Italia che riguarda anche l'informazione e spiega quell'esagerazione, che secondo me è un'esagerazione, che parla di democrazia o di in pericolo o di regime. C'è però un problema ed è un problema che fa diminuire la nostra libertà. Allora, adesso chiedo a chi ancora coinvolgerò tra poco di essere sintetici, sempre quando si arriva un po' agli sgoccioli della trasmissione c'è questa corsa. C'è il colonnello Margiulacci. Colonnello, ciao, scusami per essere rimasto in atteso, però io dicevo con questa specie di tempesta monsonica che c'è stata a Milano anche stanotte, poi qualche giorno fa, non è che tra poco sui platani troveremo le banane qui a Milano? No, voglio dire, questo è una esagerazione che si tende a fare dicendo che il clima così decisamente cambiato che avremo i temporali che si verificano a fasce equatoriali. È chiaro che temporale, disponendo di più energia, di più calore, il numero di temporali violenti sono cresciuti, no? Quindi questa è una cosa che si poteva prevedere. Perché si è alzata la temperatura. E questo, voglio dire, un po' rispecchia quello che è avvenuto ieri, questa notte, e ancora in questo momento ci sono temporali che tempestano un po' le Dolomiti, le Venezie, eccetera. Ecco, quindi voglio dire, ma la cosa si esaurirà tutto nell'arco della giornata odierna, il resto d'Italia rinfresca. Vediamo la bicchiere anche mezzo pieno, ha rinfrescato quasi ovunque, tranne la regione ionica. Domani anche lì il caldo sarà temporaneamente sconfitto. Perché dico temporaneamente? Perché tornerà un bel tempo per tutti per una decina di giorni, ma questo bel tempo lo dovremo pagare in termini di caldo. Caldo, da martedì arriverà un'altra ondata di caldo con apice tra giovedì e sabato, con apice tra giovedì e sabato soprattutto al centro-sud, ma questa volta sarà un'ondata di caldo seria, non tanto come quella strombassante nei giorni passati in cui si parlava di 40 gradi, non è stato raggiunto da nessuna diciamolo, località. Quindi basta con questo allarmismo, terrorismo psicologico, persone che mi hanno telefonato piangendo, dice: ma è vero che arrivano i 40 gradi? Puoi fare questo, qualcosa. Mandiamo all'altro mondo le persone anziane per l'attacco cardiaco allora arriveranno un'ondata di caldo, ci compriamo il ventaglio, veramente dura, quindi prepariamo. Va bene, grazie colonnello Mario Giuliacci, a te tutto il fresco possibile, immaginabile, in senso anche simbolico, e un solare naturalmente, un solare continuazione al colonnello Giuliacci. C'è Valeria Della Valle, tra pochi istanti chiedo a Piera da Cagliari, chiedo scusa veramente Piera, il tempo continua a stringere, se puoi essere sintetica Piera. Sì, senz'altro. Grazie, scusami. Buonasera, volevo esprimere la mia stima per Francesco Merlo, che è interessante, originale, proprio in gamba. Mm-hmm. Volevo chiedere proprio a lui cosa pensa di questo di Grillo, che vuole iscriversi al PD, del quale ha detto sempre peste e corna, e vuole iscriversi, ha parlato male di tutto, i dirigenti eccetera. Quale partito l'accetterebbe e perché non si fa un partito suo con i grillini parlanti, che ne so. Piera, ti ringrazio moltissimo, grazie per la sintesi. Un po' aveva risposto già Francesco Merlo, ma adesso tu rovesci un po', non dici tanto il PD che deve accettare, ma Grillo che contesta tutti perché si iscrive al PD. Adesso do subito la parola tra poco a Francesco. Valeria Della Valle, la donna, una delle donne più intelligenti ma anche più veloci, con capacità di sintesi del West. Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Valeria, senti, si parla tanto del tempo, a proposito non ci sono più le mezze stagioni, della precarietà, dei precari. È uscita anche un'inchiesta secondo cui, uno studio, c'è ormai la generazione nenne, cioè né lavoro né studio, in Europa come in Italia sempre più disimpegnati tra i 15 e i 35 anni, moltissimi non lavorano e non studiano e non vogliono neanche saperne perché dicono ormai la crisi probabilmente ha accelerato anche questa disillusione. Precario, precarietà, tu da linguista che significato sinteticamente dai? Diciamo sinteticamente, questo? Come sempre le parole riflettono, rispecchiano la realtà che cambia. Francesco Merlo è un abilissimo utilizzatore della lingua e ci dà modo di osservarlo e studiare quella che lui scrive. Ma veniamo a precario. Sì. Precario originariamente voleva dire temporaneo, incerto, provvisorio, occasionevole, quindi si poteva dire condizioni economiche precarie, un equilibrio psicologico precario o una salute precaria. Poi ha assunto nel corso del tempo, sempre come aggettivo, anche il significato relativo a tutto ciò che ha un rapporto di lavoro senza garanzie, quindi con una senza continuità e quindi legato solo a contratti. Che cosa è successo? Che negli anni 70, quando la situazione ha cominciato per certe categorie a diventare più precaria per certi versi, l'aggettivo è diventato anche sostantivo, sono nati i precari. Io stessa sono stata una precaria e quindi si è cominciato a parlare dei precari dell'università, dei precari della scuola. Quindi anche in questo caso una forma italiana che era un aggettivo si è dovuto sostantivizzare in un certo senso per rispondere e per definire una nuova realtà. E oggi si parla normalmente di precari e tutti capiscono a che cosa ci si riferisce purtroppo. Ma per essere sempre velocissima e chiudere con un dubbio, con un'osservazione che rivolgo a chi ci ascolta, risalgo all'origine latina della parola. Precarium in latino significava ottenuto con preghiere, e allora viene un po' da sorridere. Io mi auguro che i precari non debbano ricorrere alle preghiere per ottenere un giusto riconoscimento della propria attività lavorativa. Ci auguriamo di no. Grazie Valeria Della Valle, come faremo senza di lei, come faremo anche senza Gigi Borghi che raccoglie tutte le vostre telefonate. Chiedo scusa a chi non è riuscito a passare. Francesco Merlo, abbiamo ancora credo 61 secondi se vuoi 61 fare 61 secondi, bellissima questo racconto, questo breve ma lungo, densissimo racconto sulla parola precari. Bello, che ci ha dato tutto il senso, perché nasce poi, diventa una opportunità, perché così dovrebbe essere, la precarietà come opportunità, la flessibilità che poi italianamente diventa una brutta parola, per cui noi rispondiamo che qua nessuno è flesso. Qua nessuno è presso. Grazie a Francesco Merlo, come sempre, insomma, come ci diceva Valeria Della Valle, la sua capacità impareggiabile di usare la lingua, di usare anche il pensiero. Ringrazio ancora Francesco Merlo, vi ricordo che ha appena pubblicato FAC Italia. Roberta Giordano vi saluta, sempre insomma, un po' di dispiacere naturalmente, perché mentre chiedo a Filippo Reggio se mi accompagni un po' con la base, così più dolcemente, saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori, chiedo scusa per chi non fosse riuscito a intervenire, ma sabato prossimo sono ancora qui puntuale da Roberta Giordano, quindi un buon proseguimento e non esageriamo, non drammatizziamo sul caldo, ci prendiamo un ventaglio per la prossima settimana.